difficile, lo so, però è mio. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta, sincera. Musica più lenta che mace che spera, veloce per più lenta, violenta, sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Signore e signori, è arrivato lui, il folclorista, Gigi D'Agostino. La Nouvelle Martel. Arriva del folclorista, Dai un po', dai un po', dai un po', dai un po'. Il cammino di Gigi D'Agostino. Dove è andato a finire il vocalista? Beh, ci sono anch'io, Lavora. Lento. Violento. Lento. Violento. Hai capito? Lento. Violento. Lento. Violento. Lento. Violento. Lento. Violento. Ma perché? Va bene tutto, però. Dai, che famo notti? Agostino. Che dici? La cosa. Questo è il cammino di un bravo bambino. Lo capisci? Volume, abbasso finestrino, chi c'è, chi c'è, Gigi, dap, dap, oh, dap, dap, dap, stino, oh, dap, dap, dap, stino. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è Gigi D'Agostino, c'è la musica che pesta. Vieni un po' qua, te. Bravo.

forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato. Perché chi ama non lo sa spiegare. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Voglio difendermi da tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesci ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Per me, amore, vuol dire aver incontrato te. Chiama un po' il vocalist, per favore. Qui si fa comunicazione. Dobbiamo mandare in onda tutte le informazioni che riguardano quello che... Hai capito? Ecco. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello venerdì 8 settembre alla discoteca Ayers Rock One, Lamezia Terme, Cosenza. Ma Gigi, dov'è? Abbassa lo sguardo, Abbassa lo sguardo! Percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino, che sono io, ma il cammino è nostro, è mio e vostro. Perché come vi ho già detto più volte, ma non mi stancherò mai di dirlo. Muovete. Una gamba è la mia e l'altra è la vostra. Sì. E grazie a questo magico incontro che innesca questo perfetto meccanismo naturale, noi possiamo camminare. Thank you.

Vai, G, aiuto. Dove è andato a finire il vocalist? Chiamalo un po' che c'è da lavorare. Il cammino va di fretta. Il cammino va di fretta. Tu prendi il tal tampretta. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non siamo qui a rigare i conchiglioni. Minchia, questa lezione non faccio saudi. Chi è questo qua? Boh. Chiamalo un po' che... Qui si fa comunicazione. Hai capito? Bella Gigi. Everything is worth c'è mai nulla di sbagliato in ciò che fai, mai. A lavorare tutti, forza. È arrivato. Non c'è mai nulla di sbagliato in ciò che fai, mai. A lavorare tutti, forza. Chiama un po' il vocalist, per favore. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello sabato 9 settembre alla discoteca 24.000 Baci, Latina. Cammino del Gigi D'Agostino. Oh, già già. Un capolavoro! Ma chi? Mi dispiace, ma io so io. Ah, e io invece sono Gigi. Ah, è cazzino. Arriva, dai, andiamo, forza. I'll keep waiting. ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Patapuffete! Minchia! Un giorno ti chiederò di ricambiarmi il servizio, ma fino a quel momento considero un po' in occasione delle nozze di mia figlia. Vocalist. Chiudete gli occhi, lasciatevi andare. Dipende. Gigi D'Agostino vi farà sognare. Io sono stanco, ma ce l'ho cercato, veramente. Gli farò un'offerta che non può M2O. Frequenza, benevolenza. ciao e grazie. Magari più bella.